Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Sandro Lombardi legge Passaggio in India, di Edward Morgan Forster. Traduzione di Adriana Motti. Aziz era un uomo piccolo e atletico, di struttura delicata ma in realtà molto forte. Però camminare lo stancava, come stanca tutti in India, fuorché i nuovi arrivati. C'è qualcosa di ostile in quel terreno. O è molle e il piede sprofonda in una depressione, oppure è inaspettatamente duro e tagliente e aguzza sassi o altre concrezioni contro la suola. Un susseguirsi di piccole sorprese del genere esaurisce e lui portava scarpe di vernice, inadeguato arnese per qualunque terreno. Al limite del centro amministrativo entrò in una moschea per riposare. Gli era sempre piaciuta quella moschea. Era graziosa e disposta secondo i suoi gusti. Il cortile, nel quale si entrava da un cancello in rovina, conteneva una vasca lustrale di fresche e limpide acque sempre in movimento, giacché erano alimentate da una conduttura che riforniva la città. Il cortile era pavimentato di lastroni spezzati. La parte coperta della moschea era più profonda del consueto. Faceva l'effetto di una parrocchia inglese a cui fosse stato asportato un fianco. Da dove era seduto, egli guardava il buio di tre porticati, illuminato da una piccola lampada appesa e dalla luna. La facciata nel chiarore pareva di marmo e i 99 nomi di Dio sul fregio spiccavano neri, così come il fregio spiccava bianco contro il cielo. La lotta tra questi due aspetti e il conflitto delle ombre nell'interno piaceva ad Aziz, che cercò di simboleggiare tutto quanto in una verità di religione o d'amore. Una moschea, che si conquistava il suo assenso, gli lasciava libera la fantasia. Il tempio di un'altra religione, indù, cristiana o greca, l'avrebbe tediato senza destare il suo senso della bellezza. Qui c'era l'Islam, la sua patria, più di una fede, più di un grido di battaglia, di più, molto di più, l'Islam, un atteggiamento verso la vita squisito insieme e durevole, nel quale il suo corpo e i suoi pensieri trovavano la loro dimora. Stava seduto sul muro basso che cingeva il cortile da sinistra. Al di sotto il terreno declinava verso la città, che appariva come una chiazza d'alberi. Nel silenzio egli udiva una quantità di suoni leggeri. Giù a destra, nel circolo, la colonia inglese esibiva un'orchestrina di dilettanti. Altrove certi indù battevano il tamburo. Che fossero indù Aziz lo sapeva, perché il ritmo non gli era congeniale. Altri stavano facendo un lamento funebre. Lui sapeva per chi, avendone certificato il decesso nel pomeriggio. Postale del Punjab, il delizioso lezzare dei fiori nel giardino del capostazione. Ma la moschea, quella sola, aveva un significato. E a questa egli tornò dal folto richiamo della notte e vi infuse un senso più ricco di quello immaginato dal costruttore. Un giorno o l'altro avrebbe costruito anche lui una moschea, più piccola di quella, ma di gusto perfetto, perché tutti coloro che vi passavano accanto provassero la felicità che egli ora sentiva. E lì vicino, sotto una bassa cupola, ci sarebbe stata la sua tomba, con una iscrizione persiana. Ahimè, senza di me per mille e mille anni fiorirà la rosa e germoglierà la primavera, ma quelli che in segreto hanno capito il mio cuore si appresseranno a visitare la tomba ove io giaccio. Era una quartina che aveva vista sulla tomba di un re del Deccan e la considerava profonda filosofia. Lui insisteva sempre sulla profondità del patetico. La segreta intelligenza del cuore. Ripeté la frase con le lacrime agli occhi. E frattanto uno dei pilastri della moschea parve rabbrividire. Esso trasalì nel buio. Si staccò. Nel sangue di Aziz sobbalzò la credenza sugli spettri, ma egli rimase immobile. Un altro pilastro si mosse, e un terzo, ed ecco che una donna inglese si fece avanti nel chiaro della luna. Pervaso da una repentina, furiosa collera, Aziz gridò: «Signora! Signora! Signora! Oh, oh, oh!» fece la donna ansante. «Signora, questa è una moschea! Qui non avete diritti! Avreste dovuto togliervi le scarpe! Questo è un luogo sacro per i musulmani!» Le sono tolte. Davvero? Le ho lasciate all'ingresso. Allora vi chiedo scusa. Ancora turbata, la donna si diresse verso l'uscita, mantenendosi di là dalla vasca lustrale. Lui gridò alle sue spalle: «Mi rincresce davvero d'aver parlato?» «Sì, avevo ragione io, non è vero? Se mi tolgo le scarpe, posso o no?» «Certo. Ma sono così poche le signore che si prendono questo disturbo, specie se pensano che nessuno le vede.» «Oh, questo non cambia niente. Qui c'è Dio.» «Signora, oh, vi prego, lasciatemi andare. Oh, posso fare qualcosa per voi, adesso o in un altro momento qualsiasi?» «No, no, no, grazie, proprio nulla. Buonanotte. Posso sapere il vostro nome?» Ella si trovava ora nell'ombra del cancello. Egli non poteva vederle il viso, ma lei vide il suo e disse con voce mutata: «Mrs. Moore.» Avvicinandosi, lui vide che era vecchia, col viso rosso e i capelli bianchi. La sua voce l'aveva tratto in inganno. «Mrs. Moore, temo di avervi spaventata. Parlerò di voi alla mia comunità, ai nostri amici. Che Dio sia qui. È molto bello, veramente molto nobile. Immagino che siate arrivata in India da poco.» «Sì, sì, come lo sapete, da come mi avete parlato, ma via, posso chiamarvi una carrozza?» «Sono venuta dal circolo. Stanno dando una commedia che ho visto a Londra e faceva così caldo. Com'è intitolata la commedia?» «La cugina Kate.» «Credo che di notte non dovreste andarvene in giro da sola, Mrs. Moore. Ci sono in giro dei brutti tipi, e dai monti Marabar possono venir giù i leopardi, e serpenti anche.» Lei ebbe un'esclamazione. Si era dimenticata dei serpenti. «Per esempio, uno scarafaggio a 6 macchie, continuò lui. Voi lo raccattate, lui vi morde, voi morite.» «Ma voi pure andate in giro?» «Oh, io ci sono abituato.» «Ai serpenti?» Risero. «Io sono medico», disse lui. «I serpenti non osano mordermi.» Si sedettero l'uno accanto all'altra nell'entrata e si infilarono le scarpe da sera. «Scusate, posso farvi una domanda adesso? Perché siete venute in India di questa stagione, proprio quando il freddo sta per finire?» «Volevo venire prima, ma sono stata costretta a rimandare. Tra poco sarà così malsano per voi. E poi, perché siete venuta a Chandrapur?» «Per vedere mio figlio. È il magistrato di città.» «Oh no, scusatemi, questo è impossibile. Il nostro magistrato civile è il signor Hislop. Lo conosco benissimo.» «Non importa, è mio figlio», disse lei sorridendo. «Ma, Mrs. Moore, come è possibile? Mi sono sposata 2 volte. «Ah, ora capisco. E il vostro primo marito è morto.» «Infatti. E il mio secondo marito anche.» «Allora facciamo il paio», disse lui enigmaticamente. «Sicché adesso il magistrato civile è tutta la vostra famiglia?» «No, ci sono i più giovani, Ralph e Stella in Inghilterra. E il signore che è qui è fratellastro di Ralph e Stella. Precisamente. Ah, Mrs. Moore, tutto questo è veramente strano, perché anch'io, come voi, ho due figli e una figlia. Non facciamo proprio il paio perfetto? Come si chiamano? Non certamente Ron, Ralph e Stella anche loro. Quell'ipotesi lo divertì. No, infatti, che cosa buffa. I loro nomi sono completamente diversi e vi stupiranno. Ascoltate, prego. Sto per dirvi i nomi dei miei figli. Il primo si chiama Ahmed, il secondo si chiama Karim, la terza è la maggiore, Jamila. Tre figli sono sufficienti, non siete d'accordo? Sì. Stettero zitti per un momento, pensando ciascuno ai propri figli. Lei sospirò e fece per andarsene. «Vi piacerebbe di visitare l'ospedale Minto una di queste mattine?» domandò lui. «Non ho nient'altro da offrire a Chandrapur». «L'ho già visto, grazie, altrimenti sarei stata molto contenta di andarci con voi». «Immagino che vi ci abbia portato il chirurgo civile». «Sì, e la signora Callender». La voce di Aziz mutò. «Ah, una signora molto simpatica». «Può darsi, a conoscerla meglio». «Come? Come? Non vi è piaciuta?» «Senza dubbio voleva essere gentile, ma non l'ho trovata precisamente simpatica». Lui proruppe. «Poco fa si è presa il mio risciò senza il mio permesso. Lo chiamate essere simpatici, questo? E tutte le sere il maggiore Callender mi fa chiamare mentre sto pranzando coi miei amici e io corro, interrompendo una piacevolissima riunione, e non trovo lui e nemmeno un suo messaggio. Ditemelo voi, è simpatico questo?» «Ah, ma che importa? Io non posso farci niente, e lui lo sa. Non sono che un dipendente. Il mio tempo non ha nessun valore. Il portico va fin troppo bene per un indiano. Ma sì, che stia in piedi. E la signora Callender si prende la mia carrozza e non mi guarda nemmeno in faccia». Mrs. Moore ascoltava. Lui era agitato non solo dai torti subiti, ma molto più dall'idea che qualcuno ne avesse compassione. Proprio questo lo spingeva a ripetersi, a esagerare, a contraddirsi. Lei gli aveva dimostrato la propria simpatia criticando la propria amica e connazionale, ma Aziz lo sapeva fin da prima. La fiamma che nemmeno la bellezza può alimentare stava divampando, e lui, in cuor suo, cominciava ad ardere quantunque le sue parole fossero risentite. E ad un tratto quell'ardore divenne parola. «Voi mi capite. Voi sapete quello che sentono gli altri. Oh, se gli altri fossero come voi!» Alquanto stupita, lei rispose: «Non credo di capire la gente molto bene. So soltanto se mi piace o no». «Allora siete un orientale!» Lei accettò d'essere riaccompagnata al circolo e al cancello gli disse che avrebbe voluto essere socia per poterlo invitare. «Gli indiani non sono ammessi al circolo di Chandrapur, nemmeno come ospiti», disse lui con semplicità. In quel momento i torti subiti non gli cuocevano, perché era felice. Mentre scendeva giù dall'altura sotto una luna incantevole e rivedeva l'incantevole moschea, gli parve di possedere quella terra come chiunque altro la possedeva. Che importava se un pugno di fiacchi indù l'avevano preceduto e un pugno di gelidi inglesi l'avevano seguito? Shubhakaryeshu sarvada. terzo atto della cugina Kate era cominciato da un pezzo, quando Mrs. Moore rientrò al circolo. Le finestre erano sbarrate, a scanso che i servitori vedessero recitare le loro Mem Sahib, e di conseguenza c'era un caldo terribile. Un ventilatore elettrico girava su se stesso come un uccello ferito, un altro era fuori uso. Non sentendosela di tornare tra il pubblico, essa andò nella sala da biliardo, dove fu accolta da un «Io voglio vedere la vera India!» e la vita che era più sua rifluì impetuosamente in lei. Si trattava di Adela Quested, la strana, cauta ragazza che Ronnie l'aveva incaricata di portare dall'Inghilterra. E Ronnie era suo figlio, cauto anche lui, e che probabilmente, ma non sicuramente, Miss Quested avrebbe sposato. E lei era una signora avanti negli anni. «Voglio vederla anch'io, e mi auguro che ci sarà possibile. A quanto pare i Tarton combineranno qualcosa per martedì prossimo. Tutto finirà in una passeggiata sull'elefante, come sempre. Guardate stasera, la cugina Kate, figuriamoci, la cugina Kate!» «Ma dove ve ne siete andata? Siete riuscita a pescare la luna nel Gange?» Alle due donne la sera prima era accaduto di vedere la luna riflessa in un lontano canale del fiume. Deformata dall'acqua, era apparsa più grande della luna vera e più luminosa, e questo le aveva divertite. Sono andata alla moschea, ma non ho pescato la luna. L'angolazione deve essere cambiata. La luna sorge più tardi. Più tardi? Molto più tardi, sbadigliò Mrs. Moore, che era stanca della passeggiata. Lasciami pensare. Di qua non vediamo mica l'altra faccia della luna, no? Ma via, l'India non è poi così brutta, disse una voce gradevole. L'altra faccia della terra, se volete. Ma dalla solita vecchia luna non ci stacchiamo mai. Nell'una nell'altra conosceva l'interlocutore, che d'altronde non avrebbero mai più visto. Con queste parole amichevoli dileguò nell'ombra attraverso i pilastri di mattoni rossi. «Non stiamo vedendo nemmeno l'altra faccia del mondo, ed è proprio questo che ci dispiace», disse Adela. Mrs. Moore approvò. La monotonia della loro nuova vita deludeva anche lei. Avevano fatto tutto quel romantico viaggio attraverso il Mediterraneo e le sabbie dell'Egitto fino al porto di Bombay, e al termine non avevano trovato che una scacchiera di bungalows. Ma lei quel disinganno non lo prendeva al tragico come Miss Quested, per la buona ragione che aveva 40 anni di più e aveva imparato che la vita non ci dà mai quello che vogliamo nel momento che ci sembra giusto. Le avventure arrivano, ma non puntuali. Disse ancora che sperava che si combinasse qualcosa di interessante per il prossimo martedì. «Bevete qualcosa», disse un'altra voce gradevole. «Mrs. Moore, Miss Quested, bevete qualcosa e poi qualcosa ancora». Epilepsy is dancing, she's a Christ now departing, and I'm finding my rhythm as I twist in the snow. Questa volta sapevano chi fosse l'intendente generale, Mr. Tarton, col quale avevano pranzato. Anche lui aveva trovato troppo calda l'atmosfera della cugina Kate. Ronnie, disse, stava cavandosela benissimo nelle funzioni di regista come sostituto del maggiore Callender, che era stato piantato in asso da un suo dipendente indigeno o qualcosa del genere. Poi passò agli altri meriti di Ronnie e con voce pacata e assiomatica disse molte cose lusinghiere. Non che il giovanotto fosse particolarmente bravo nel gioco o nel dialetto indigeno, né che fosse molto versato nella legge, ma, un grosso ma a quanto pareva, Ronnie era una persona assai degna. As I came to a screaming, hold me while I'm dreaming, for my fingers are curling and I cannot breathe. Mrs. Moore si meravigliò nell'apprenderlo. dal momento che la dignità non è uno dei requisiti che le madri attribuiscono ai propri figli. Miss Questide ne fu allarmata, perché non aveva deciso se le piacessero gli uomini pieni di dignità. Cercò infatti di discutere con Mr. Tarton su questo punto, ma lui la fece tacere con un bonario cenno della mano e continuò il discorso che era venuto a fare. «Per dirla tutta, Hislop è un sahib, è il tipo che ci occorre, è uno di noi». E un altro borghese che stava curvo sul tavolo da biliardo disse «Bene, bravo». Messa così la questione assolutamente fuori di dubbio, l'intendente generale passò oltre perché nuovi doveri lo chiamavano. Then I cried in the kitchen, how I seen you go switching, there's a soldering blue line between my eyes. Cut me in quadrants, leave me in the corner. Cut me in quadrants. La rappresentazione era finita e l'orchestra di dilettanti suonava l'inno nazionale. Ci fu un alt nella conversazione e nei biliardi, le facce si irrigidirono. Era l'inno dell'esercito di occupazione. A ogni socio del circolo ricordò che era un inglese o una inglese in esilio. Suscitò un po' di commozione e un utile incremento di energia volitiva. La melodia asciutta, la concisa serie di richieste a Geova, si fondevano in una preghiera ignota in Inghilterra, e quantunque nessuno percepisse né re né Dio, qualcosa tuttavia percepirono e se ne sentirono rincuorati a resistere per un altro giorno. Poi si riversarono fuori, offrendosi da bere a vicenda. «Adela, bevi qualcosa? Un bicchierino, mamma?» disse Ronnie. Rifiutarono. Ne avevano abbastanza di bicchierini, e Miss Questide, che diceva sempre quello che aveva in mente, dichiarò di nuovo che desiderava vedere la vera India. Ronnie era di ottimo umore, la richiesta gli sembrò comica, ed egli gridò a qualcuno che passava «Fielding, come si fa a vedere la vera India?» «Cercando di vedere gli indiani», rispose l'altro, e scomparve. «Chi era quello?» «Il nostro insegnante all'istituto governativo». «Come se si potesse evitare di vederli», sospirò Mrs. Leslie. «Io ci sono riuscita», disse Miss Questide. «Eccetto il mio servitore, è troppo se ho parlato a un indiano dal mio sbarco in poi». «Beata voi! Ma io voglio vederli!» Diventò il centro di un divertito gruppo di signore. Una disse «Vuole vedere gli indiani! Questa è nuova!» Un'altra «Gli indigeni! Dio mio, che idea!» Una terza, più seria, disse «Lasciate che vi spieghi. Non è che gli indigeni vi rispettino di più dopo avervi incontrata, capite?» «Dopo molti incontri succede la stessa cosa». Ma la signora, assolutamente stupida e cordiale, continuò «Voglio dire questo. Prima di sposarmi ero infermiera e ne ho visti moltissimi, quindi lo so. Io sugli indiani so la verità vera, una situazione delle più impossibili per una donna inglese. Ero infermiera in uno stato indigeno. L'unico scampo era di tenersi rigorosamente appartati». «Anche dai propri pazienti?» «Beh, la cosa più amabile che si possa fare per un indigeno è di lasciarlo morire», disse Mrs. Callender. «E se va in paradiso?» domandò Mrs. Moore, con un sorriso gentile ma piccato. «Ah, può andare dove vuole, purché non venga vicino a me, mi danno i brividi». A dire il vero, ho pensato anch'io quello che avete detto sul paradiso, ed è per questo che sono contraria ai missionari, disse la signora che aveva fatto l'infermiera. Io sono tutta per i cappellani, ma assolutamente contro i missionari. Ah, lasciate che vi spieghi. Ma prima che potesse farlo, intervenne l'intendente. Volete veramente conoscere il fratello indiano, Miss Quested? Si può combinare facilmente. Non credevo che vi avrebbe divertito. Ci pensò un momento. Potete vedere praticamente tutti i tipi che vi interessano. Scegliete voi. Io conosco gente dell'amministrazione e proprietari. Il nostro Hislop può mettere le mani sulla cricca degli avvocati, mentre se volete specializzarvi nel campo educativo, possiamo ricorrere a Fielding. Sono stanca di vedermi sfilare davanti figure pittoresche come su un fregio, spiegò la ragazza. È stato magnifico quando siamo sbarcate. Ma quella magia superficiale passa presto. L'intendente non provava il minimo interesse per le sue impressioni. Non si preoccupava che di farla divertire. Le sarebbe piaciuto fare un bridge party? Una festa ponte? Le spiegò che cosa fosse, non il gioco di carte, il bridge, ma una riunione per buttare un ponte sull'abisso tra l'Oriente e l'Occidente. L'espressione era di suo conio e divertiva tutti quelli che la sentivano. Io voglio soltanto quegli indiani che voi incontrate in società, come amici. Beh, noi non li incontriamo in società, disse lui ridendo. Sono pieni di tutte le virtù, ma noi non li incontriamo. E ormai sono 41 anni, è troppo tardi per appurarne i motivi. Sandro Lombardi ha letto Passaggio in India di Edward Morgan Forster, realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.